Il mio nome è leggenda, sono ribelle, sono io la rivolta, sono la storta che rallenta un mondo che corre verso la sua condanna. E ogni volta che vi guardo in tele, la rabbia mi sale, mi fotte la testa, ho un Pinocchio artigianale. Ehi, sono il Geppetto della bomba, sono una nuova razza, il bombarolo. Non sarò mai un fottuto cavaliere del lavoro, e c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Sono l'acrobata della rivoluzione, qui chi non terrorizza, Chico, è il primo che si ammala di terrore. Vi troverò nemici, voi così distanti, e dopo avervi uccisi sarò fra i lati tanti. Ma finché vi cerco io, i lati tanti siete voi. Certo che son Dio, rendo il Parlamento un campo di concentramento, come da noi. Voi, politici del cazzo, che scherzate col nostro bilancio. Potere troppe volte delegato ad altre mani, con la democrazia esportata dai vostri aeroplani. Voi che fottete l'università, ci fottete il domani. Voi che parlate di pietà e poi piangete disperati con il sangue sulle mani. Il mio nome è impiegato, un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato. Sono un giovane bruciato, la mia bomba un fuoco di paglia che incendia lo Stato. E ciò che mi hai lasciato, amore, è il tuo viso stralunato che si sporge da ogni foglio. Ed io ferito nell'orgoglio, ho capito lo sbaglio. Le notti in bianco, cazzo, le notti in bianco, cominciato dal basso, ma ero troppo stanco del vostro pazzo governo. Forse meriterò l'inferno, ma intanto sono la notizia del giorno.